Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È chiaro che tutti noi vediamo come uno degli incubi più ricorrenti il fatto che degli estranei possano entrare a casa nostra, nell'accezione peggiorativa, che possano entrarci quando noi siamo a casa, magari addormentati. E quindi scattano le possibili maniere di fornire al proprio appartamento di validi sistemi di sicurezza. E qui poi, naturalmente, si apre una trattatistica che può anche sfiorare la leggenda. Abbiamo cercato, e ve lo ripropongo questa mattina, visto che d'estate è il periodo in cui maggiormente cresce l'apprensione per la sicurezza della propria casa, quelli che sono al momento i sistemi di maggiore affidabilità per rendere sicura la propria casa, senza naturalmente avere l'impressione di vivere dentro una galera. Le rapine in casa sono aumentate del 25,8%, i furti del 17,3%. Sono entrati in azione intorno alle 3 di notte, si sono arrampicati lungo l'inferriata che congiunge i ballatoi del condominio e dopo aver forzato la porta vetro sono riusciti a entrare nell'appartamento. Riuscivano a entrare grazie a una grande abilità, alcuni serraturieri che facevano parte della banda praticamente riuscivano a fare i calchi delle chiavi e quindi tramite alcune attrezzature particolari e anche l'ausilio di alcuni dipendenti presso due rivendite ufficiali di serrature riuscivano a duplicare le chiavi e quindi a entrare in casa con la massima tranquillità. La gente è diventata più cattiva. Ho sentito ieri un'intervista fatta per strada a Milano, via dell'Orso, dove è stato assassinato un gioielliere. Si chiedeva alla gente: ma come mai secondo voi? Cioè, perché la gente è più cattiva, c'è la crisi, girano meno soldi, è più evidente la disparità tra chi ne ha tanti, chi ne ha sempre di meno, e quindi la gente diventa cattiva. Come questo si traduce però nella nostra ansia costante di sicurezza? Noi spesse volte ci siamo occupati della sicurezza delle nostre case. Noi abbiamo toccato l'ambito qualche giorno fa, il tema che la nostra casa non è più tanto nostra, diventa un bene rifugio, diventa l'ultima chance dopo essersi venduti i gioiellini di famiglia subaffittando stanze di casa. Ma chi ancora ha l'idea che comunque sia il luogo più riservato, più intimo, il luogo in cui veramente ci sentiamo ancora chissà per quanto padroni delle nostre emozioni, delle nostre cose che strappiamo ogni giorno alla dilagante fame inesauribile di chi vuole aggredire, attentare le nostre risorse, sia essa manovra fiscale o sia esso realmente identificabile, persona che entra in maniera furtiva a casa nostra per impossessarsi di qualcosa di nostro. Avete sentito la copertina? Più aumentano le tecniche di protezione, più inventiamo serrature efficaci, più si affina la cattiveria di chi vuole entrare a casa nostra. I serraturieri sono delle nuove generazioni di ladri, di rapinatori, che cercano velocemente anche loro di affinare la tecnica per entrare a casa nostra. Davanti a casa mia esiste un'attività molto fiorente, a cui spesso anche io mi servo, che appunto fa serrature, cassaforte, sistemi di sicurezza. In vetrina è esposto, oltre ai prodotti che vende, anche i prodotti dei ladri, dei serraturieri. Quindi c'è il tubo con la rondellona per scassinare le porte, il piede di porco, li tengono tutti lì in vetrina per indurre le persone a comprare l'ultimo prodotto. Cioè, guardate come vi fregano. Quindi io so tutto su come ci scassinano le porte. Bello, l'hanno fatto loro probabilmente, o gli avrà prestato qualcuno. C'è un tubo di ferro con un altro attrezzo sotto che usano le bande per scassinare le serrature di ultima generazione. Tu vedi quello, te la fai sotto, subito corri dentro, mi dia quella della terza generazione, la quarta generazione. Beh, voi come la pensate? 800240024. Cosa fate per essere sicuri a casa vostra? L'allarme che installeremo è un kit senza fili che può essere interamente gestito attraverso il telefono cellulare e che invia tutte le notifiche tramite SMS. Alla fine ogni ladro sa aprire ogni casa, ogni macchina. Intanto l'allarme non serve mai per fermare il ladro. Possiamo fare qualcosa per sentirci al sicuro? Certo che sì! Allora, nei bar o negozi basta mettere i sensori in alto, così almeno i ladri non possono raggiungerli con lo spray. Ma non solo! In commercio ci sono dei nuovi sensori che rilevano eventuali tentativi di manomissione. Se uno li copre, fanno scattare l'allarme. 40 euro in più, ne vale la pena. Con gli allarmi stesso discorso, metteteli più in alto possibile, così i ladri... Vi dico subito quali sono secondo me le linee di pensiero. O uno sta dietro alla tecnologia e quindi cerca sempre il sensore più sensibile, cerca sempre il sistema di allarme più avanzato, si adegua continuamente, come i maniaci delle tariffe telefoniche che passano più tempo a cercare la tariffa conveniente rispetto a quanto poi realmente usino il loro telefono, o si sceglie l'altra strada, uno se ne sbatte totalmente, lascia la chiave sulla porta di casa, dice ben vengano, facciano di me ciò che vogliono. Non so quale sia la forma migliore e quale realmente dia sicurezza. Aspetto che me lo dica qualcuno che è del mestiere. Pasquale Totaro, buongiorno. Buongiorno. Totaro è responsabile della Videotrend, che è un'azienda leader che opera nel settore dei sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Voi avete anche inventato, siete un sistema centralizzato di video embeddizzato in grado di utilizzare tecnologie diverse tra loro, anche di marchi differenti. Cosa significa? Mi faccia capire, perché è molto oltre rispetto alle aspettative del nostro pubblico, che si aspettava semplicemente una chiave a toppa multipla più sicura di quella che ha già a casa sua. È veramente difficile poter garantire la sicurezza delle persone. Bisogna sempre aggiornarsi costantemente anche su quello che fanno purtroppo che commettono appunto questi reati. Noi abbiamo sviluppato e ogni giorno andiamo avanti nello sviluppo apparecchiature che servono per integrare più tecnologie di sicurezza, quindi non basta più solo l'antifurto, perché è un buon deterrente, rileva quando c'è in atto un reato, ma non serve per bloccare il ladro. E quindi noi abbiamo integrato questi sistemi, abbinandoli anche a sistemi di videosorveglianza, che ovviamente garantiscono anche un ottimo effetto deterrente, perché oggi il ladro è molto terrorizzato dal fatto di essere riconosciuto anche dopo che ha fatto il reato, perché lascia una traccia che è passato, che è stato lui, e quindi la gente può riconoscerlo. E quindi mettere le telecamere garantisce anche questo effetto di deterrente, che è molto importante, perché purtroppo prevenire che qualcuno entri è diventato veramente molto difficile. E abbinando queste tecnologie, quindi scusi Pasquale Totaro, chiaramente lei è superfluo, glielo domandi, è per la prima linea, non affidarsi al caso, essere fatalisti, ma essere aggiornati. Assolutamente no, e come avete già detto prima voi, io sono uno di quelli che odia pensare di dover vivere in un carcere, quindi mettere barriere fisiche come grate, che sono molto efficaci per amor del cielo, però a quel punto gli altri sembriamo noi, perché siamo noi incarcerati. Quindi io personalmente non sopporto che una persona onesta debba vivere in un carcere per proteggersi dai ladri. Quindi lei, diciamo, è per dei sistemi più sofisticati rispetto alla vecchia maniera analogica. Mi sbarro dentro e metto intanto delle finestre blindate, delle inferriate ovunque. No, non necessariamente. Diciamo che spesso e volentieri questi sistemi di sicurezza vanno un po' in contrasto con il livello estetico che chiede la clientela, perché bisogna intervenire sempre prima dell'appartamento, mai dentro ormai diciamo è già tardi. Quindi cioè una volta che sono dentro la frittata è fatta, bisogna aspettare, sì, fare in modo che non entrino, ecco. Anzi, un consiglio: non intervenire mai nel caso siano entrati, perché non si sa mai come può reagire. Sì, ma l'idiota di turno già mi ha mandato un SMS, dice il mio antifurto e la mia beretta che tengo sul comodino. Io feci già una trasmissione in precedenza, dico tenere una pistola in casa per questo uso, con le case come sono fatte oggi, significa rischiare di trapassare la parete e ammazzare il vicino di casa. Ecco. Assolutamente, facciamo fare questo mestiere alle forze dell'ordine, che sono preposte per questo e ogni giorno si prodigano per garantire la nostra sicurezza. La cosa, l'invito che si deve fare è quello di essere conscienti, purtroppo viviamo in una società dove questi reati succedono ogni giorno, e dare effetti forti e deterrenti soprattutto a chi vuole entrare. Quindi intervenire con sistemi di sicurezza esterni, che non necessariamente sono sempre costosi, però danno quantomeno un avviso a chi si avvicina che c'è qualcosa che li può riprendere, li può fermare e può permettere alle forze dell'ordine di indagare su di loro. Quindi la grande novità, diciamo, filosofica è questa, visto che siamo nel momento della ipercomunicazione, visto che siamo nei tempi dei social network, creare un sistema di visibilità in modo che casa nostra non sia più un luogo in cui si possa entrare di soppiatto, nascosto, ma quando noi non ci siamo, non ci sono i vicini, non c'è il portiere, sia comunque visibile a qualcuno. Sì, sono sistemi integrati che permettono, grazie all'ausilio degli antifurti e delle telecamere, ad esempio l'avviso interattivo immediato con l'invio di filmati relativi all'intrusione o il principio di intrusione, quindi quando non sono ancora entrati dentro. Ma dove arrivano? Sul nostro smartphone può arrivare il filmato del lato che sta entrando? Sì. Beh, questo sì. È fantastico. E permettono anche la connessione remota per fare una visione in live di quello che sta succedendo, permettendo così anche di discriminare eventuali falsi allarmi. Questo è un principio di base molto importante per far sì che uno possa stare tranquillo, anche se ahimè oggi non ci sono più come un tempo i furti quando non si è in casa, ma prevalentemente la notte o quando si è in casa, perché si dà per scontato che non si inserisca l'antifurto. Quindi un consiglio molto importante del motivo per cui dicevamo prima di utilizzare sistemi attivi esterni prima dell'entrata è proprio questo, per far sì che quando uno sta per entrare in appartamento si può anche inserire l'antifurto, perché tanto l'antifurto è esterno all'appartamento, lo si può vivere tranquillamente in casa. No, questo che sta dicendo aumenterà l'inquietudine di chi ci ascolta, che statisticamente non è più il furto che attende tu esca di casa, ma vengono, ma purtroppo le cronache questo ci raccontano, le intrusioni in casa avvengono quando i proprietari stanno a casa e molte volte sono anche vittima della violenza di chi entra. Purtroppo sì. Sentiamo Roberto un attimo. Roberto, buongiorno, primo ascoltatore. 800240024 è il numero, prego. Buongiorno, io chiamo da Salso Maggiore, sono un tecnico di sicurezza punto serrature da 30 anni e volevo magari chiarire un po' anche su quali serrature si possono montare, perché c'è poca chiarezza, perché io vedo pubblicizzati dei prodotti che vengono spacciati come serrature di sicurezza che in realtà di sicurezza non sono. E quindi secondo lei quali sono le serrature di sicurezza? Allora, la serratura di sicurezza deve avere determinate caratteristiche. Innanzitutto deve essere a profilo europeo, ma deve essere chiave protetta. Per protetta intendo realmente protetta. Deve essere una chiave che può essere fatta solo ed esclusivamente dietro la presentazione della scheda di proprietà. E va bene, sì, c'è una specie di carta di credito, di tesserina legata. Diciamo. Fino a qua ci siamo arrivati anche noi. L'importante è che abbia un defender antistrappo all'esterno, che è la borchia di protezione antistrappo, e su questo non si può assolutamente transigere. Purtroppo, e poi se no vengono con quel famoso tubo che ho visto sotto casa mia. Io vedo purtroppo in giro pubblicizzate anche a delle cifre piuttosto alte delle serrature che in realtà serrature di sicurezza non sono, assolutamente. Questo, a mio parere, è una cosa che sarebbe da controllare, perché non è possibile che una persona si monti in casa una serratura dove gli fanno la chiave sul posto, in poche parole. No, questo assolutamente. Beh, fino a qua uno lo sa che uno dovrebbe tenere a casa ben nascosta la tesserina, che poi anche quella non è che te la fanno subito se vai, ti chiedono il documento. Senta, scrive un ascoltatore, se è vero che le serrature europee, approfitto della sua competenza, se uno mette la chiave all'interno, la richiude all'interno, si aprono facilmente anche con un tesserino, un pezzo di celluloide? Se la porta è aperta. Cioè, intendiamoci, quello con la scheda, diciamo la scheda telefonica, sì, il bancomat, eccetera, si apre una porta aperta che all'esterno non ha la maniglia che ruota, perché ha soltanto lo scrocco, diciamo, noi lo chiamiamo lo scrocco, che è quello che aggancia, ma in questo caso la porta è completamente aperta, eh. Cioè, non è capace il proprietario, ma qualsiasi, non dico ladro. No, ma ormai lo sanno fare tutti, girano tutti col tesserino. Però sì, la porta non è chiusa così, la porta è aperta. Quindi ci sono le mandate, no. Quindi uno dovrebbe chiudere le mandate anche quando sta dentro casa? Sempre, e soprattutto se ha una chiave doppia mappa, quelle vecchie, diciamo, per intenderci, sì, quelle fatte a pettine in fondo, la chiave non deve mai essere sulla serratura, mai. Deve essere sempre sfilata, tolta, chiusa, chiave tolta. Le aprono uguali, però se ci lascia sulla chiave utilizzano la sua chiave per entrare. Quindi diciamo il giorno, la notte, se siete stare tranquilli, non lasciate mai la porta non chiudendo la mandata. Assolutamente la chiave non deve mai essere sulla serratura. E mai soprattutto non chiudere la mandata anche all'interno, perché sennò altrimenti... Bisogna sempre chiudere, perché altrimenti la porta, se uno fuori non ha la maniglia, è convinto che la porta sia chiusa, ma è... È come fosse aperta. Ah, è come fosse aperta, sì. E Pasquale Toto, rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, altro da aggiungere? Io concordo appieno con quello che sta dicendo il radioascoltatore, anzi... È saggio. Oggigiorno purtroppo ci sono anche molte aziende che commercializzano solo perché vogliono vendere e non perché vogliono proteggere la gente, e quindi interessa più magari vendere e realizzare guadagni anziché dare veramente un prodotto che possa garantire la sicurezza. Purtroppo anche questa è una cosa che ogni giorno possiamo appurare. 800 24 0024, piacerebbe sapere che tipo di furto avete subito, dateci degli elementi di come sono entrati a casa, che tipo di sistema avevate, così diamo un quadro completo, facciamo una mattinata in cui forniamo realmente un servizio. Mi scrive Pasquale Totaro come fanno a convivere due temi antitetici, quello della il diritto alla privatezza e la sicurezza. Molti mi dicono come faccio a mettere una telecamera davanti alla porta di casa mia, poi il vicino dice come adesso inquadra anche me, vede chi entra e esce a casa mia, e quindi non funziona questa cosa, non te lo puoi permettere. Beh, purtroppo il problema della privacy al nostro giudizio è un problema reale, sì, ma anche troppo esagerato, perché non dimentichiamoci una cosa: quando si parla di sicurezza, e parliamo di sicurezza reale e non amatoriale, quindi vedere quello che fa la gente così per scrutarla, è importante poter acquisire informazioni. È chiaro che queste informazioni alle volte vengono tutelate giustamente dalla privacy, imponendo che la telecamera non può essere mai messa al di fuori dell'appartamento, si va a inquadrare zone comuni senza l'autorizzazione o zone aperte, quindi questo limita parecchio l'utilizzo di sistemi di sicurezza. Diciamo che sarebbe un'utopia sperare che un giorno si possa fare questo senza avere la paura che qualcuno stia riprendendo semplicemente ma mi viene in mente, scusi dottor, si può fare un accordo di pianerottolo? Io con il portone accanto al mio dico guarda, mettiamoci d'accordo, sia io che te ci teniamo sia la nostra sicurezza che la nostra privatezza, mettiamo una telecamera e ognuno sa che pagherà un piccolo prezzo, che il vicino in parte potrebbe vedere chi entra e esce a casa tua, però stai più tranquillo. Assolutamente, per questo si necessita un'assemblea condominiale, un condominio dove ci vuole l'unanimità per poterlo fare. Molti condomini hanno capito che è un'esigenza reale e l'hanno fatto, altri invece c'è la paura del vicino che vada a spiare, però per questo si risolve subito la cosa, che l'intermezzo venga dato a un portiere o un condomino o un consigliere del condominio, che è l'unico incaricato in caso di reati di andare a vedere le registrazioni. Quindi a quel punto cadono tutte le problematiche relative alla violazione, certo, della privacy. Certo, io le dirò, è un po' inquietante sapere c'è una memoria che vede tutti quelli che entrano e escono dal mio portone, non perché uno abbia alta linea. Ma se nessuno li va a vedere è un conto, lei pensi la controparte di sicurezza quando rubano a casa mia, comunque so che da qualche parte qualcuno ha filmato chi è entrato, a qualcosa di una pur cedere. Sentiamo Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Milano. Sì. Io faccio il fabbro da 28 anni. Quindi ha visto tutto l'evolversi delle tecnologie di serratura? Ho visto tutto, guardi. Il problema è questo, la realtà è un'altra ed è complessa. La storia delle telecamere può essere buona fino a un certo punto, le spiego perché. Prima di tutto perché oggi l'80% dei furti lo fanno i zingari, quella gente lì, per cui di conseguenza anche se gli mette le telecamere... Non gliene può importare, sì, molte volte sono minorenni, ragazzini, se anche uno li prende non gliene importa nulla. Questa è la cosa principale. La seconda cosa è purtroppo... Non è vero che non ti fanno le chiavi che devi avere il documento, ma le chiavi te le duplicano tutti, perché uno ha un amico, quello conosce quel ferramenta e quello conosce quello e te le fanno. Invece quindi secondo lei ci deve essere per forza un patto, alla fine, non dico generalizzato e non voglio gettare la croce su nessuno, ma ci sono degli anelli deboli, come quando ci sono i furti in banca, c'è sempre, si dice, la talpa all'interno della banca, ci sono delle talpe all'interno di chi vende le serrature che passa i dati. Bravissimo, loro dovrebbero chiedere innanzitutto, tu sei fabbro? Sì, ok, vieni da me, io ti do la chiave. Non possono darla a uno qualsiasi, uno va lì, perché se uno compra una serratura che costa 150 euro e poi si presenta uno che chiede una chiave, no? Perché danno 5 chiavi in dotazione su queste chiavi che costano tanto, su queste serrature. Sì, ma io a casa mia, mi scusi, ho una specie di tessera, sembra quasi una carta di credito, e ce l'ho io, se uno non ha quella non te la danno la chiave. Non serve a niente, perché... Non serve a niente, perché lei a Milano su 300 ferramenta ne trova 100 che gliela fanno quella chiave. Senza tesserina. Ma sì, assolutamente sì. Aspetta, resti lì Antonio, interessante. Pasquale Totaro, lei risulta questa cosa? Ne ho sentito parlare, diciamo che esce un po' dal mio campo, quindi... No, però se dobbiamo dare un'informazione completa, mettiamo anche le pulci nell'orecchio, che il sistema funziona se c'è un'onestà totale da parte di tutti quelli che vendono chiavi. È chiaro, ma la chiave può essere rifatta anche senza tesserina, tecnicamente? Fabio, il collega di Milano, penso che lo sappia meglio di me perché è una cosa passiva, quindi non allora può. Sentiamo Antonio Fabio, sentiamo. Antonio, faccio una domanda precisa. Le chiavi che, su cui poggio la sicurezza di casa mia, che sono legate a una tesserina che ho soltanto io, senza quella mi hanno detto nessuno farà una copia della chiave, può essere tecnicamente rifatta senza tesserina? Assolutamente sì. L'unico che non gli può a lei rifare la chiave è quando lei va a comprare una serratura personalizzata. Esistono delle aziende piccoline, delle case piccoline, adesso non so io, i vostri ospiti, non voglio parlare male di loro perché non li conosco. Ripeto. No, loro fanno sistemi di sicurezza integrati, quindi ecco, è un po' fuori del loro campo, però è interessante quello che dice lei. Ecco, io glielo dico, l'unica garanzia che lei può avere, esistono delle chiavi personalizzate, nel senso che esiste un'azienda piccolina, una, due, tre, esistono queste aziende, che praticamente loro dicono solo io ti posso fare la chiave. Tant'è vero che a me a volte succede di andare in casa di persone o di amici, soprattutto di amici, che mi dicono guarda Antonio mi sono entrato in casa, oppure guarda Antonio ho perso la chiave, io stesso che sono fabbro faccio una fatica assurda e devo andare dall'altra parte di Milano o addirittura fuori Milano a dirgli io ho bisogno questa chiave perché la fanno solo loro, in questo caso lei è sicuro che in qualsiasi ferramenta lei a Milano va, non gliela possono fare, perché sono chiavi personalizzate. Comunque quelle di marchi, diciamo, anche se di ottimi marchi, ma industriali, quelli che vendono in qualsiasi negozio, con la tesserina di sicurezza c'è sempre il problema che se non è onesto chi te l'ha venduta può rifarla comunque. Io pensavo che fossero legati in maniera indissolubile, senza la tessera magnetica non si rifà la chiave. Ma si figuri. Mi preoccupa in questo momento anche me stesso. Melog. La realtà condivisa. Ecco un vademecum stilato da Confedilizia per prevenire furti e intrusioni in casa durante assenze prolungate. La prima buona regola da seguire è quella di evitare di tenere porte e finestre spalancate, almeno se non si è dotati di un antifurto perimetrale, di cancelletti di ferro o tapparelle con sicura. È buona norma poi redigere un inventario degli oggetti di valore che si custodiscono in casa. Nel caso di assenze prolungate, lasciare una luce accesa oppure una radiosveglia attiva e invece disattivare i nuovi contatori dell'Enel che possono segnalare la sospensione del consumo elettrico e quindi dare un'indicazione dell'assenza dalla propria abitazione. Infine, se possibile, far svuotare la cassetta della posta da pubblicità e quant'altro. Anche questa potrebbe essere un'indicazione utile a chi ha cattive intenzioni. Certo, questa è l'evoluzione dei consigli della nonna che lasciava il buon di Motta, il cappuccino avviato per 15 giorni quando andava in villeggiatura, pensando che i ladri, quando vi vedevano ormai la merendina camminava da solo e il latte con sopra la muffetta, che pensava che la nonna stava a casa e quindi stanno tranquilli. No, però qualche passo in avanti si fa nella sicurezza delle case, anche se il nostro ascoltatore fabbro di professione poco fa ci ha fatto cadere ogni poesia. Ogni sistema di sicurezza basata sulla fiducia che si ha con il nostro fornitore di serrature è legato appunto alla sua onestà. Chiunque potrebbe andare a farsi fare una chiave, magari al banco c'è una persona di manica larga, gliela fa comunque e per noi è finita. Abbiamo al telefono Pasquale Totaro, che è responsabile della Videotrend, che è un'azienda che opera nei sistemi di sicurezza, antifurto, videosorveglianze. Vediamo qualche ascoltatore. Antonio, l'abbiamo sentito. Roberto da Roma. Sì, Roberto, abbassi la radio però. La radio l'ho spenta. Ah, ecco, adesso va bene, infatti. Buongiorno, niente, io volevo soltanto dare testimonianza perché io ho subito un furto un anno e mezzo fa. Intanto la prima cosa che mi viene in mente è che uno si può inventare qualsiasi sistema di sicurezza, ma quello che veramente avrebbe un effetto valido sarebbe quello che la giustizia facesse il suo corso. Cioè, se io leggo sul giornale che c'è una persona che ha fatto un furto, una rapina, un omicidio, e questa persona aveva già avuto a che fare con la giustizia perché aveva fatto tre rapine, eccetera, eccetera, ancora sta in giro, è chiaro che la possibilità di risolvere il problema soltanto con le inferriate, con le chiavi sì, quello che dice lei lo capisco, Roberto, però in questo momento dobbiamo parlare per settori, se no se tocchiamo l'universo mondo non risolviamo nulla. Parliamo sui sistemi di sicurezza. È chiaro che lei dice saremmo più sicuri se una volta arrestato, chi entra nelle case se ne stesse poi un po' in gattabuia, se poi esce il giorno dopo, come nel caso che diceva l'ascoltatore, molte volte sono minorenni, nomadi, che normalmente non c'è possibilità di fare nulla, e ritornano sempre sul luogo del delitto, anche riprenderli con una telecamera non cambia lo stato delle cose. Roberto invece da Modena. Sì, buongiorno. Sì. Portavo la mia testimonianza perché ho subito da poco un furto, quindi successivamente all'evento mi sono documentato e mi sono attrezzato. Io ritengo che qualsiasi tipo di serratura non abbia nessuna efficacia se non supportata da un sistema di allarme. È quello che dice il nostro ospite, la teoria del nostro ospite. La serratura da sola non basta, ci vuole un sistema integrato. Perché dal momento che poi viaggiando su internet uno verifica, addirittura vendono le attrezzature per fare le chiavi, per aprire le porte, quindi l'importante è che non abbiano tempo per fare l'intervento, perché è un'operazione che si svolge nel giro di 10-15 minuti. Quindi ma lei lo sa per sua esperienza che in 15 minuti l'hanno svuotato casa? Sì, mi hanno portato via, sono entrati in casa dal garage e mi hanno sventrato il basculante del garage con una cesoia mentre ero in casa, quindi di notte. Normalmente questi furti li fanno dalle 3 alle 4 e mezza del mattino con gente in casa, portandomi una moto di 400 kg, quindi una cosa, poi andando in casa eccetera eccetera. Quindi qui sono entrati in casa mentre lei dormiva, mentre stava a casa? Sì, tranquillamente. Non si è accorta perché di nulla? Non si è accorto di nulla? No, anche perché gli impianti di allarme oggi, una volta si concepivano ed erano concepiti per essere inseriti quando uno se ne andava, oggi devono essere concepiti per salvaguardare quando uno è all'interno, quindi devono proteggere il perimetro esterno. Questo è interessante però, Pasquale Totaro, quello che ha detto il nostro ascoltatore, il sistema d'allarme, gioco forse uno pensa lo inserisco quando esco, ma quando è dentro casa come fa a esserci un sistema d'allarme che suona se qualcuno, se io mi alzo a prendere un bicchiere d'acqua scatta l'allarme, come fa a identificare la differenza fra me e il ladro? L'avevo già accennato prima, l'intervento va fatto sempre esterno all'appartamento, perché oggigiorno ci sono delle barriere apposte che vengono collocate in prossimità delle tapparelle oppure delle persiane che consentono al ladro che quando si avvicina, perché non voglio andare contro il mio collega Fabbro, ma vabbè, fate mestieri diversi, noi, ognuno c'ha il suo campo. Io ho l'opportunità di rivedere spesso quando fanno un furto le immagini, quindi ho una dinamica di quello che fanno. Mi descrive un attimo come cosa succede. Quello che ha detto l'ascoltato di Modena l'abbiamo già visto parecchie volte e ahimè nell'ultimo anno succede di frequente, soprattutto il fatto che dalla porta è raro che passano. Ormai preferiscono passare da una tapparella, da una finestra, da una persiana o tagliare la porta del box, che è meno robusta rispetto a una porta di casa. Lei pensi, Totaro, che io sono 30 anni che faccio questo mestiere, spesso negli anni faccio trasmissioni sulla sicurezza, ero rimasto alla statistica che dicevano i suoi colleghi di qualche anno fa, il ladro entra sempre principalmente dalla porta, non è più così? No, assolutamente. Ecco come cambia il mondo. Abbiamo visto anche non ci sta a pensare, per esempio i pluviali permettono a persone molto agili, io personalmente non lo farei ma l'ho visto fare, quindi ai pluviali permettono di arrampicarsi e arrivare in prossimità del balcone. Cioè lei ha visto filmati dove lungo le grondaie salgono i ragazzini? Assolutamente sì, proprio come acrobati praticamente. Sì, ripeto, io non lo farei mai, ma loro lo fanno di mestiere, quindi sono più attrezzati di uno che non lo fa. Poi cosa ha visto in questi filmati che noi non avremmo mai occasione di vedere? Quando entrano in casa come si comportano? Ma la prima cosa che vanno a cercare è sempre la camera da letto, perché c'è l'abitudine ormai consolidata da parte di tutti quanti di conservare le gioie e i beni preziosi in camera da letto, e cominciano a buttare dall'aria il più possibile, il più velocemente possibile, perché sanno che hanno poco tempo, soprattutto se c'è un antifurto, e quindi già questo quantomeno gli mette 10 minuti, un quarto d'ora di tempo disponibile, non oltre. Senza un antifurto avrebbero alle volte anche le giornate intere per fare queste ricerche, no? E molte volte portano via cose facili da rivendere, tipo anelli, gioie, lasciano anche addirittura computer perché sono troppo ingombranti, perché soprattutto il ladruncolo, che può essere lo zingaro del caso, cerca cose piccole. Quindi lei conosce, diciamo, le categorie medie del ladro d'appartamento, visto che ha esperienza, ce le può classificare? Esiste, diciamo, il gruppo dei ragazzini degli zingari, tanto è inutile qua girarci intorno. Sono meno pericolosi quelli, perché loro cercano semplicemente soldi e anelli. E oro, e oro. Assolutamente, non fanno del male a nessuno. Il caso del signor di Modena è il classico caso dove è meglio non intervenire, perché sono pronti a tutto, perché quando arrivano a fare un furto del genere, sono pronti veramente. Sono bande organizzate che hanno anche attrezzi da scasso importanti, perché quindi è meglio starsene fermi e dirgli dove sta la roba e farli operare tranquillamente. Sì, di sicuro è una cosa che consiglio vivamente, perché bisogna avere sangue freddo per agire a certe situazioni, loro ce l'hanno. L'interlocutore non lo so se lo può avere, quindi il consiglio è di non intervenire mai. Anche se mirano la camera da letto dove stanno poi i proprietari dell'appartamento a quell'ora. Beh, quindi lì cambia la cosa, diciamo che cambia la cosa. Generalmente quando entrano al box c'è qualcuno in casa, non vanno nella camera da letto, lo fanno quando non c'è nessuno in casa, quello. Quindi cercano di svuotare intorno. Anche loro generalmente non cercano lo scontro, perché è vero che lo zingaro del caso, quando entra dentro, preleva degli oggetti, però non vuole lasciare la stessa traccia, perché tra scegliere una casa aperta, una casa chiusa o protetta, è chiaro che va a rischiare meno una casa meno protetta. Quindi questi deterrenti sono molto importanti per limitare la scelta verso il proprio appartamento. Ci fermiamo solo un istante, Totaro, per le informazioni del traffico. Melog, la realtà condivisa. Un'esperienza dolorosa che mi è stata appena raccontata, ho qualche timore ma la racconto lo stesso. Il professor Chiappini, al di là del vetro della regia, ha confessato un momento la sua vita privata che non aveva mai detto a nessuno. Giorni fa, proprio mentre stava qui, mandava in onda Melog, arrivò un sms al suo telefonino con scritto allarme zona bagno. Lui ha un sistema sofisticatissimo nella sua casa dei Castelli Romani, quindi ha avvertito il vicino che nella zona bagno era entrato qualcuno, così infatti è avvenuto, ma tempo che è intervenuta la vecchia dell'appartamento accanto e i ladri già se ne erano andati, gli hanno saccheggiato il garage portandogli via l'oggetto a lui più caro, che era una motosega. Andiamo avanti con le testimonianze del nostro pubblico. Marco, buongiorno. Buongiorno, sono un falegname serramentista, io da più di 30 anni che faccio sto lavoro. Volevo precisare il fatto delle serrature con il tesserino. Il tesserino è una carta d'identità di quella serratura, che quando io vado in una serramenta o in un centro che fa chiavi, se ho il tesserino la fa, se non ce l'ha non dovrebbe farla. Per quanto riguarda però poi, tecnicamente può farla. Tecnicamente sì. Io vedo, lo sa, l'illusione che covavo io, che fossero legati uno all'altro. Dico, però lì sta l'onestà di chi fa la serratura. Sì, beh, come dire nulla, capisce? Se si affida all'essere umano. Io pensavo, guardi, fino a un minuto fa, la mia ignoranza la confesso apertamente, non ho pudore, che quel tesserino fosse legato indissolubilmente a rifare a chiave. Pensavo che lo infilassero da qualche parte, senza quello non si faccia la chiave. No, invece no. È un atto di fiducia e basta, inutile. Per quanto riguarda invece le serrature personalizzate, esistono aziende che ti danno il kit a te ferramenta, a te centro che fa chiavi, per costruirti la serratura in te da dare al tuo cliente finale. Perciò queste ditte, non è che ce n'è una magari in Lombardia, ce ne sono diverse di ferramente, o chi, la maggior parte sono ferramente, che fanno serrature su misura personalizzate. E lì si è sicuri, in questo caso si è sicuri? Si è sicuri, no? Sì, abbastanza sicuri. Diciamo che secondo me la miglior sicurezza, a parte l'allarme, è di intervenire sulla porta con delle cose fai da te, ad esempio anche sulle finestre, fare delle cose fai da te. Adesso, cioè, fai da te moda, che vuol dire? Da ghigliottina cosa ci mette? No, ad esempio adesso va di moda tanti mettere le inferriate, ma tanti non sanno che con un tronchesino da muratore in 10 secondi tagliamo l'inferriata, uno magari va a fare la spesa, lascia aperta la finestra, tanto c'ho l'inferriata, 10 secondi ti apre, ti taglia l'inferriata e entra in casa. Ma scusi, il tronchesino se è un tondino da 5 centimetri, come fa a tagliare con... No, tondino è una cosa, ma lei se ci fa caso, c'è la cornice che magari è un tubolare di 40x40, ecco, non sì. È in mezzo, ci sono dentro i tondini 10-12 mm. e quel tondino lì in 10 secondi lo taglia, tagliato uno entra. Invece se uno invece, partendo dal serramento, se è fatto in una, bene il serramento, tagliare i vetri, mettere i vetri accoppiati, uno per rompere il vetro, anziché mettere 30 secondi, ci mette 5 e fa molto più rumore. Poi sulla maniglia, adesso va di moda anche forare la maniglia dall'esterno, così con un cacciavite, dalla parte dentro nel meccanismo che fa chiudere e aprire, che fa funzionare il meccanismo della maniglia, lì ci mettiamo una lamiera di un certo materiale, uno fa fatica anche a forare. Questi piccoli accorgimenti, che magari Fabbro dovrebbe sapere, possono far sì che magari ci sia quell'attimino in più di sicurezza. Cioè, diciamo, lei aggiungere altre, cioè più cose mette, è come quando uno scappa. No, non è che più cose mette, io credo che mettere gli inferriati, a parte che dopo uno è come se un carcere. Sì, ma l'inferriata l'ha detto anche il nostro ospite, che ormai è una cosa antica, queste inferriate che si vedono dipinte di bianco e con i riccioli barocchi in tanti appartamenti anni 60-70, non servono assolutamente a nulla, le aprono che fa ridere. Pasquale Totoro, rispetto a queste telefonate. Confermano quello che diceva lei, più o meno? Sì, ampiamente. Anzi, io un consiglio che do, ad esempio, è dotarsi di tapparelle blindate oppure in acciaio, perché molte volte entrano dalle tapparelle che sono in plastica, basta tagliare l'ultimo listello, anche se c'è un antifurto di concezione un po' obsoleta, con rivelatori in movimento o contatti magnetici, e il ladro tranquillamente può entrare, perché dopo l'unico ostacolo che rimane è un vetro che si taglia tranquillamente. Quindi sì, diciamolo chiaro, uno può mettere anche la porta super blindata quando c'ha il terrazzino, che se c'è qualcuno bravo che dal terrazzino sopra scende, poi la tapparella si apre con le mani, si tira su, comunque sia, è di plastica, e poi basta aprire un vetro, che non è una cosa complicata, anche se è doppio blindato, sempre vetro è alla fine. L'altra cosa che è molto importante è seguire una filosofia di uniformità, cioè inutile mettere la porta blindata se appunto io lascio le finestre aperte o non mi copro da altre parti, quindi è importante fare una copertura totale, giusto la porta blindata con una buona serratura, come è giusto usare delle tapparelle un po' più robuste, e soprattutto quando si va a dormire e si va via abbassare sempre le tapparelle. Questa è una cosa che molti dimenticano, ma è fondamentale, perché ribadisco. Ma uno poi la mattina parlando, non si sveglia con la luce, quello è il problema. Lo so. Sentiamo Giuliana. Giuliana, buongiorno. Finalmente una signora. Buongiorno, mi fa molto piacere poter intervenire a questa vostra trasmissione, perché voglio darvi una notizia che fino adesso non ho sentito. Oh, finalmente, ci illumini. Penso di poter essere utile, senz'altro. Allora, guardi, noi importiamo dalla Danimarca un sistema, un apparato di sicurezza che è in grado di sventare fisicamente il furto. Ma come funziona? I ladri non sono in grado di vedere. Perché? Perché in pochissimi secondi, una volta che è partito l'allarme e si attiva questa macchina, si riempie l'ambiente, qualsiasi sia la dimensione, dal piccolo ambiente anche ai grandissimi. Fialette ambienti. Puzzolenti. Assolutamente, niente di puzzolente, ma di una nebbia fittissima che crea. Ah, l'ho visto in televisione, fa tutto il fumo. Un muro non è un fumo, è proprio nebbia, in effetti si chiama nebbiogeno, perché altro non è che un glicole alimentare mischiato del vapore acqueo che si polimerizza quando poi viene sprigionato nell'ambiente, e si crea un muro che è assolutamente impenetrabile. È anche utile perché fa come la vaporella, alla fine quando va via pulisce casa. No, assolutamente, non si pulisce casa perché non lascia residui, assolutamente, e quindi è atossico, non lascia residui, ha tutte le certificazioni riconosciute a livello europeo, e noi le dico, ne montiamo. Quanto tempo dura questa nebbia? Quanto tempo dura? Anche 20 minuti, mezz'ora, nonostante anche... Non è tossica, non è tossica. Assolutamente no. Quindi uno può anche a casa inventarsi dei giochi erotici, far partire la nebbia così? Ecco, va bene, è un po' fitta, dopo non so che cosa vede, non so che cosa, perché francamente... Gioca a nascondino. Sentiamo Totaro, conosce questo sistema del nebbiogeno? Sì, visto. Assolutamente. Lo giudica utilizzato ormai efficace? Da 5-6 anni, soprattutto in ambiti commerciali, perché in un appartamento dove c'è solo un'uscita e varie svariate porte, trovarsi con una barriera che non ti fa vedere dove stai andando, con dei bambini in casa, non lo consiglierei molto. In un negozio, in un ufficio, un'attività commerciale, è un ottimo sistema utilizzato già cioè, da svariate ammesso anni. Che uno lo mettesse a casa, la casa si riempie di nebbia, e il ladro cosa fa a quel punto? Sei già dentro? È l'attivazione che va fatta, perché è un sistema che va attivato anche lì con dei rivelatori, Quindi dove si trova il ladro ci deve essere anche l'apparecchiatura. Bisogna anche farlo scappare, perché se mi rimane bloccato in casa con la nebbia e mi rimane in camera da letto, quello è il problema, non esce mai più. Vabbè, è interessante, oggi abbiamo visto ci sono delle frontiere inarrivabili a difesa di casa propria, abbiamo dato il nostro contributo, sappiamo che questo non vi assicurerà in assoluto di non essere colpiti da ladri di appartamento. A domani.